che cantar vi alletta. Uitevi, signori, ho qua una canzonetta di fresco data fuori, vivace e graziosa, che gusto vi può dar. Pur che la bella sposa mi voglia secondar. Sì, sì, non prendo ancora, che se cosa avrà, se prende tutto il mondo, che giunta contenta.